volevo fare solo una piccola considerazione. Dal Milan e la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto. Signori e signori sportivi, amici in ascolto, il buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per il sole breve cronaca del primo tempo con voi in Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Cavani allontana corto, Ibarbo prova la finta per liberare il destro. Victor Ibarbo, Cagliari in vantaggio. Pander batte, schema corto per Amsic in area di rigore, pallone deviato, fuori gioco, ha alzato la bandierina il guardalino, aveva toccato Paolo Cannavaro. È 1-1, è pareggio al San Paolo. Cavani, e il gol è buono. Cavani fa gol, fa 2-1, è il Matador. Sau a giro, Marco Sau, ancora un gol fantastico per lui. Passa Insigne, vuole calciare! Insigne al 94esimo! Quadrato pallonetto, Fiorentina avanti, 1-0 all'ottavo. Borca Valero, altro cross verso Aquilani! Alberto Aquilani, Fiorentina 2, Torino 0. Parte Ljajic con il destro! Adem Ljajic, Fiorentina 3, Torino 0, Barreto! Il piatto di Barreto, il Torino c'è ancora, Santana! Bucato Viviano, il 3-2 del Torino! Cerci, carica il sinistro! Adesso Cerci, Romulo! Deve uscire Amelia, calcio di rigore, completamente fuori tempo Amelia, Arthur, Vidal, 1-0. Ed eccoci, grazie a Fabio Cantadore abbiamo avuto la spremuta riassunto di una domenica, quella di ieri, è stato un maledetto weekend di brutto tempo e nervi tesi al Quirinale, sulle piazze, sui campi, negli stadi, quasi tutto fosse legato, e secondo me lo è, a un invisibile filo rosso. Oggi Laura Faggin in redazione e Marco Ansaldo, penne illustre della stampa, a telefono con noi. Ciao Marco. Ciao, ciao Carlo. Io ho questa idea un po' perversa, sai, ho sempre pensato, forse sbagliando che, e forzando i termini della questione, che il calcio fosse il rovescio della medaglia della politica, argomenti che noi abbiamo il pessimo vizio di vivere con la pancia prima che con la ragione. Ieri ho visto un sacco di botte sui ring di Serie A, una Serie A che mi sembra abbastanza finita, salvo la lotta per la salvezza. Beh sì, dal punto di vista, se intendi che è finita nel senso della classifica, direi di sì. Mi sembra che, visto che ieri Juve Milan doveva essere anche il clou di tutto un campionato, mi sembra che sia anche proprio finita la Serie A, nel senso che se quello è lo spettacolo, ragazzi, siamo veramente malmessi. Partito orrenda, ho fatto fatica a stare sveglio, ero un po' stanchino, però ho fatto fatica. Ma guarda, io invece ho potuto riposare nel pomeriggio, ma mi stavo assorbentando lo stesso modo. Non è tanto il fatto del dormire, poi per carità abbiamo visto tutti la Juve e il Milan in tante altre occasioni della stagione, per cui sappiamo tutti quanti che il loro livello non è quello che si è espresso ieri, però è stata una partita veramente brutta, con poche cose, cioè una Juventus che ormai, sapendo di essere arrivata quasi al traguardo, non voleva rischiare molto, ha giocato sotto ritmo, e la cosa strana secondo me invece è il Milan, cioè sì, è il Milan che doveva vincere quella partita in più della Juventus, e non ha fatto assolutamente nulla né prima né dopo il rigore per vincere quella partita. Ma io ho l'impressione che il Milan abbia finito la benzina fisica ed emotiva nelle partite con il Barcellona. Ho l'impressione che stia tentando di tagliare il traguardo a motore spento, ma mancano 5 giri, il che mi sembra troppa roba. La Fiorentina finora ha corso leggera, da adesso in poi magari qualche responsabilità in più ce l'avrà addosso. Mi domando se il ritorno di Balotelli, se non lo so, qualche cambiamento nella formazione possono riportare benzina nel serbatoio del Milan, quanto basta almeno per un secondo, per un terzo posto che fa tutta la differenza del mondo, non dimentichiamolo. Sì, è una grande differenza, perché almeno puoi arrivare ai preliminari di Champions League, anche perché noi diamo sempre per scontato che siano tre le squadre che vanno in Champions League, in realtà sono due più una terza. Vorrei rispettosamente far notare che negli ultimi due anni la terza del campionato poi in Champions League non c'è arrivata. Ma al di là di questo, per il Milan è fondamentale arrivare almeno al terzo posto. Non so se Balotelli basterà, perché vedo dei problemi tutto il resto della squadra. Allora, o Balotelli vale per 11 o se no il Milan ha dei problemi, perché il Sharawi non è quello ovviamente del giro dell'andata, Robinho è una robigna, nel senso di pianta? Sì, nel senso che sì, poca roba insomma, sì. E Boateng mi conferma che ha fatto un grande campionato quando aveva vicino Ibrahimovic, che è stato il benefattore di molti presunti fenomeni ufficialisti, e quindi il centrocampo ieri il migliore è stato Ambrosini, anche se Montolivo deve stare facendo una grande stagione, ma ieri il migliore era Ambrosini, che poi si è anche fatto male, e voglio dire, vedere Ambrosini alla sua età essere il migliore lascia qualche perplessità sul resto. Insomma, è una squadra che ha prodotto un grandissimo sforzo per riportarsi in alto, e poi è arrivata a questa situazione. Secondo me la chiave, più che la partita del Barcellona, è stata la partita di Firenze, nel senso che una partita che avevi in mano, che teneva lontanissima la Fiorentina, il vantaggio di due gol con un uomo in più, arrivi a pareggiarla e a perdere quell'occasione lì, ecco che ti vengono a mancare da un punto di vista psicologico delle sicurezze. E difatti poi col Napoli è successo quel che è successo, e con la Juve c'è stata questa partita non partita, ecco. Strano, perché era stato il weekend degli scandali, no? Quando nell'altra metà di Milano si diceva a tutti favoriscono il Milan per farlo andare in Champions League, eccetera eccetera. Strano. 800 24 00 24, voglio sentire la vostra voce, siete tutti convocati. Marco Ansaldo, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico e poi voglio chiudere con te sull'argomento Inter, perché ci sono state oggi dichiarazioni di Moratti. Si va avanti per l'eternità con Stramaccioni, mentre sono cominciate anche le rivendicazioni di Rocchi, di Jonathan, eccetera eccetera. Avete visto? Ci avete trattato come rottami e invece ci siamo anche noi. Strade. Sono convocato anch'io e vengo in ritiro per forza. Tutti convocati. Tranquillo, basteranno gli arbitri per farli arrivare terzi, mi scrive maliziosamente un ascoltatore via SMS aggiungendo leggilo milanista. Quest'ultima parte poteva risparmiarsela, sul resto vedremo. Ma a Marco Ansaldo chiedo, l'Inter adesso vince 1-0 con il Parma, ovviamente senza giocare una grande partita, sembra che sbuchi di nuovo il sole, c'è Rocchi che rivendica il suo passato, c'è Jonathan che dice ma è sempre stata colpa mia per tutto, se nevicava, se pioveva, adesso avete visto che non sono così un cadavere. E allora ricominciano le rivendicazioni, mentre Moratti dice andiamo avanti con Stramaccioni che ha avuto tanti infortuni, non ha colpe, eccetera eccetera eccetera. Io sinceramente non capisco più nulla, tu credo neanche, a dire la verità. Sì, capisco, mi sembra di capire che Moratti stia cercando in tutti i modi una partenza dal calcio, insomma, si sia stancato un po' di questo giocattolo, per cui una via d'uscita, sì, un escape. Sì, si impegni il meno possibile, perché chiaramente Stramaccioni mi sembra una figurina in questo calcio, non so se diventerà mai un grande allenatore, secondo me deve ancora fare molta strada per riuscire a diventarlo. Io ricordo ad esempio partite dell'Inter anche ultimamente in cui tutto il primo tempo veniva buttato via per le scelte, diciamo, inappropriate del suo allenatore, che poi nell'intervallo riusciva a cambiare qualcosa e gli andava pure bene, come è successo ad esempio nell'ultimo derby in cui però poteva trovarsi sotto di 3-0 all'intervallo. Quindi non mi sembra una grande scelta di quella di Tamatone. Poi sugli altri, sai che i giocatori poi quando le cose vanno bene cominciano a dire avete visto che sono un fenomeno. Esatto, esatto. Fa parte un po' della mentalità di un po' noi tutti, devo dire, no? Cioè, sì, però non è che succeda spesso da tutte le parti, Ma succede dove le cose non vanno bene, capito? Perché è chiaro che quando, cioè, voglio dire, se Quagliarella In questo momento della Juventus, parlo di Quagliarella, un giocatore è stato abbastanza trascurato nell'arco della stagione, al punto che adesso addirittura si gioca, la Juventus gioca con una punta sola e lui sta fuori, ma nel momento in cui lui dovesse segnare e avanzasse delle pretese, potrebbe sentirsi dire sì, ma che vuoi, tanto questi hanno vinto il campionato anche con un tuo contributo abbastanza limitato. Quando si tratta di giocatore di un Inter che ha fatto la stagione che ha fatto, appena le cose vanno un po' bene diventa normale poter dire beh, allora avete visto che non ero io la causa, che non ero io il problema, che io se fossi stato utilizzato di più le cose sarebbero andate meglio. Insomma, fa parte del casino di una società quando le cose non vanno bene. Ai tempi di Mourinho questo mi sembra che non succedesse. No, non ricordo nemmeno una volta, caro Marco Ansaldo. Grazie Marco, buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro a Marco Ansaldo. Adesso è il vostro momento, 800 24 00 24. Poi parleremo anche di motori, di un weekend che non si è salvato dal grigiore generale. Non sto parlando solo del tempo, per fortuna lì nessuno ha fatto a botte come è successo, ripeto, a Napoli nel derby di Sicilia. Poi oggi ho visto addirittura le immagini di Mario Suarez, che pare sia un top player, che però non perde occasione di smarrire o di lasciare negli spogliatoi il cervello, e ieri ha addentato un avversario, Ivanovic, in una scena abbastanza surreale. Dunque, prima di Maria da Roma, Francesco da Cosenza, Luca dalla provincia di Reggio Emilia, e visto che sono di stamattina, vi voglio dare una notizia che è bellissima, così sorridiamo un po' tutti, ed è il successo di Roberta Vinci, che ha conquistato il punto decisivo questa mattina nella semifinale di Fed Cup contro la Repubblica Ceca. Italia dunque 3-1 contro in questo match con la Repubblica Ceca, e si affronterà la Russia per giocarci la Fed Cup. Vince, ha battuto Safarova 6-3, 6-7, 6-3. Allora, stamattina ha parlato Moratti, partendo da lontano, cioè da Mancini, per arrivare a Stramaccioni. La Corale fu una storia tutta diversa, e con Mancini pure, perché Mancini fu lui a decidere a un certo punto di uscire, e poi dopo è successo quello che è successo, cioè man mano andava avanti la cosa, poi si dovette cercare un altro allenatore che era Mourinho, anche se Mancini aveva fatto benissimo, ma era lui che si era staccato, poi dopo ci ha ripensato, ma era tardi. Quindi si riparte con Stramaccioni. Sì. Ragazzi, fuori la voce che la mia è pochina. Maria da Roma, buongiorno. 800 24 00 24, numero verde. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, voglio premettere che io sono una vecchia signora, ho quasi 85 anni. Ed è la benvenuta, signora Maria. Come? Ed è la benvenuta. Sì, ma poi in questo momento gli ottantenni vanno molto forte, penso quasi di fondare un partito. È sicuro. Di ultra ottantenni che avrebbe grande successo. Forse per questa mia età io sono scandalizzata da questi continui fatti che succedono dentro e fuori i campi di calcio. Sì. E io quando giocano la Roma o la Lazio, io spesso evito di andare a trovare mia figlia che sta nei pressi dell'Olimpico. Però io vorrei anche dire una cosa, che in questo caso io attribuisco una parte di colpa anche alla stampa e soprattutto alle radio e televisioni private che fanno il tifo per le loro squadre. Io vivo a Roma. Sì, sappiamo bene quale quello. Sia il peso, l'importanza, ecco, mediatica della radio romana. È veramente una cosa, io sento dire delle cose in radio e in televisione veramente allucinanti, veramente allucinanti. Quindi credo che forse tutti ci dovremmo dare una calmata, anche in politica magari, però questo non è il momento di parlare di politica. Però voglio dire, è tutto un clima rissoso che è veramente senza nessunissima considerazione dell'avversario. Non sì. C'è l'avversario, c'è il nemico. Sì, e questo allora. E lei sta facendo un meraviglioso discorso di paralleli tra calcio e politica, che a me piace molto, anche perché io credo che siano gli unici due argomenti per i quali gli italiani non vivono, non ragionano con la testa, ma ragionano con la pancia. Questo è certamente fuori luogo in entrambi i casi, quindi lei ha ragione, è come insomma inondare di benzina un falò di menti un po' deboli. Facciamo così giusto perché oggi sono buono e non voglio eccedere con le parole, no Maria? È meglio, facciamo così, facciamo i buonisti una volta tanto, sì, oggi, ma domani no. Almeno così. Di usare le perifrasi va bene. Sì, ecco, sì, visto che invece in genere non le usano. Tanto chi è intelligente intende, chi non è intelligente tanto non può intendere nemmeno in altro modo. Ma soprattutto ci sono anche intelligenti che non vogliono intendere, sa? Sì, lo so. E questo è ancora più grave. Ha ragione, Maria, parlerei con lei tutto il giorno. Perché potremmo fare discorsi molto interessanti. La saluto e torno a convocarla quando vuole. Grazie, lei è molto gentile. Grazie tante. 800 24 00 24, facciamo i buoni, ma magari non troppo. Cosa dite, ragazzi? Se no ci divertiamo poco. Francesco da Cosenza cosa dice? Buongiorno, grazie per avermi convocato. Io sono un tifoso di calcio, però oggi vorrei soffermarmi sul basket, dato che lei è un grande appassionato di basket. Sì. Chiamo dal profondo sud, ma sono tifosissimo dell'Olimpia Milano. Da sempre, da fin quando ero piccolo, ho sempre seguito questa squadra, da quanto si chiamava Tracer. Allora, le volevo chiedere, quando potremmo tornare ai livelli che competono a una squadra e a una città come Milano? Perché con tutto il rispetto come fa a farmi una domanda così difficile? Per realtà come Cantù, come Varese, però cioè, noi le vogliamo guardare dall'alto questa realtà come è sempre stato. Quindi io vorrei ritornare alla Tracer degli anni 80, cioè quando vincevamo con Maccabi della Viv con due punti all'ultimo secondo. Ricordo, c'era c'è la solidità presente, economica. C'è la solidità economica, dovrebbe essere un allenatore tra i più bravi del vecchio continente. Io mi chiedo, perché sono un appassionato di basket, però lei è molto più competente di me. Dato che ci sono gli elementi, cosa manca per tornare a queste? Perché c'è tutto, al pubblico c'è maggiore presenza, penso, nella serie di pubblico, c'è una solidità economica, una società forte. Sì, c'è una società economica, c'è solidità economica, se c'è una società forte ci sono state anche almeno una trentina, se non di più, di scelte sbagliate da ogni punto di vista, e questo ha impedito a Milano di, secondo me, negli ultimi anni, pur spendendo una montagna di soldi, di costruire. Magari Milano quest'anno vince il campionato per assenza di avversari, per stelle favorevoli, per serie di playoff incomprensibilmente lunghe fino alle 7 partite, per profondità di squadra. Però è una squadra che non ha mai convinto, non ha mai acceso la scintilla nemmeno nel pubblico. A me dà sempre l'impressione, e ogni anno dà l'impressione, di essere una squadra di bravissimi graduati senza un generale. E questa è l'impressione che Milano mi trasmette da un sacco di tempo. Cioè manca il carisma di chi è in grado di prendere in mano la squadra quando serve e di guidare anche la squadra emotivamente, anche fuori dal campo. Torno a ripetere un nome a caso, Diamantidis per esempio, invece di spendere un sacco di soldi per tanti giocatori medio bravi e tutti uguali, secondo me si dovrebbe partire da un leader vero e poi andare a costruirgli la squadra intorno. Quindi non ho altre spiegazioni e non ho neanche una risposta da darle. Luca, provincia di Reggio Emilia. Sì, ciao Carlo, grazie ciao per Luca. Sempre convocati 8 00 24 00 24, allora, ogni giorno tifoso Juventino, di questa occasione favorevole, visto che abbiamo vinto, per evidenziare come secondo me è scorretto l'atteggiamento degli attaccanti o di comunque chi è sottoporta, che tende a buttarsi per avere il rigore nel caso di Adamoa di sera. Mi sembra che il rigore ci fosse. Il rigore è evidente che secondo il regolamento ci fosse, però era anche evidente che la palla stesse andando fuori, quindi abbiamo visto cose peggiori. Sì, ma a me sembra un po' una presa per il culo, tipo un vigile che ti fa la multa perché non hai cintura quando sta uscendo dal parcheggio. La cintura devi avere, però. Sì, vabbè, ma Luca, sappiamo che è un'abitudine del nostro calcio. A me prova ad andare a vedere qualche allenamento di squadre giovanili. Ci sono degli allenatori che insegnano ai ragazzini a fare i furbi, sì, a buttarsi, eccetera, eccetera. Poi non prendiamo a parametro questi qui, prendiamo a parametro ciò che si insegna quando sei ragazzino, e il mal costume è questo, secondo me, che viene anche in parte dai genitori, però non andiamo nella sociologia. Allora, il rigore su Asamoah ieri c'era, ci stava. La Juventus ha vinto con pieno merito, il Milan non è riuscito neanche a giocare una partita che era fondamentale. Dunque non mi sembra il caso in questa particolare situazione di dare colpe all'arbitro, ad Asamoah o a questi atteggiamenti furbeschi o ladreschi. 800240024, Giuseppe, provincia di Messina, Roberto da Vicenza parleranno subito dopo la borsa, ma altri ascoltatori aspetto qui dopo appunto la breve pausa che ci aspetta. Salve direttore! Convocati. Oggi più che mai voglio sentire la vostra voce e leggere anche i vostri messaggi. 349-238-6666, anche se siete in parte un pugno di carogne quando mi scrivete. Godiamo per la mediocrità della gara di ieri di Valentino Rossi. Godete pure, uomini di poca fede. Io no, mi dispiace, ma insomma non. Io aspetto, come ha detto Graziano, a Valentino Rossi a Erez. Luca, domenica perfetta, Vettel domina, Alonso mangia un quintale di polvere, l'evasore fiscale è tornato nelle posizioni che gli competono. Spero che lei non abbia mai evaso le tasse, Luca. Io purtroppo non l'ho mai fatto, Valentino Rossi l'ha fatto, ha pagato, ha transato, ha fatto quello che doveva fare. Sinceramente io lo guardo in pista. Poi il resto mi interessa poco, anche perché mi pare che sia anche nello stesso mondo circuito delle moto in discreta compagnia, che non è certamente una scusante. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno Carlo, ciao. Ciao. Possiamo darci del tu? Ma dobbiamo. Ascolti, io volevo parlare del Milan, perché mi sembra che sta ripetendo la stessa stagione dell'anno scorso, cioè un finale in netto calando. Sì. E secondo me, io ho l'impressione che nelle prossime due partite in casa con Catania e Torino, il Milan rischierà qualcosa, in particolar modo contro il Torino, che è una squadra che potrà mettere in difficoltà sicuramente il Milan, e che tra l'altro secondo me rischia qualcosina anche per la Serie B, perché ha un trittico di partite nel niente male, Juve, Milan, Genoa. Quindi secondo me la lotta per la Champions sarà ancora molto molto intrigante. Tu cosa ne pensi? Io penso che il Toro sia non rischi moltissimo per la Serie B. Credo però che il Milan non abbia più molte energie. Non so se potrà bastare l'adrenalina del ritorno di Balotelli, ma forse anche questo effetto è finito. Certamente il Milan deve ancora conquistare la Champions League e certamente quel terzo posto, anche per le strategie societarie del futuro, fa tutta la differenza del mondo. Dunque non è una questione tutt'altro che banale. Adesso la Fiorentina, che è a corso leggero, che non aveva nulla da perdere, insomma, comincerà a sentire forse un certo tipo di pressione. Il Milan che ho visto ieri sera rischia davvero di finire fuori dall'Europa che conta. Poi Gagliani dice: ripartiremo da questa squadra, che non è abbastanza né sul fronte interno né su quello internazionale, dando per scontato l'accesso in Champions League, come si dà per scontato da un po', cosa che in questo momento è tutt'altro che realistica. Roberto Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta una cosa, io volevo parlare un attimo, sentivo prima di Stramaccioni, sì, non è certo il top degli allenatori, però vorrei averlo visto con una squadra completa, non certamente con una squadra di questo genere qua. È difficile, secondo me, giudicare un allenatore con mezza squadra. Quello che io vorrei dire è la preparazione atletica dell'Inter. Che se tutti sono rotti, motivo pure ci sarà. Eh sì, e quindi è tutto il pool degli allenatori, Stramaccioni compreso, in questo caso, che deve rivedere le strategie, Roberto. Poi lei dice: vorrei vederlo con una squadra completa, lo vedrà a sentire Moratti e i suoi programmi futuri. Stramaccioni ha fatto degli errori, secondo me, che sono stati quelli di imporre comunque la teoria del suo calcio, di provare ad imporre comunque qualche idea nuova anche quando la squadra non ce l'aveva. In questi casi allenatori più sgamati, più scafati, la giocano magari in un'altra maniera, in maniera davvero provinciale, come Stramaccioni un giorno si senti dire offendendosi a morte in maniera ingiustificata. Ecco, non è stato bravo a, secondo me, a gestire un'emergenza che magari non totalmente per colpa sua sia venuta a creare, e questa è stata la principale pecca della sua stagione. Comunque stia tranquillo, Moratti dice che l'anno prossimo l'allenatore resta lui, dunque riuscirà a vederlo con una squadra al completo, quale non si sa. Paolo Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno gente. Salve, senta, io sono juventino e ha già comprato la maglia con lo scudetto Roma. numero lascia stare, dello scudetto nuovo. Lo scudetto ne hanno vinti 29, questo fa 30, mettiamo tutti a tacere. Io vorrei leggere però riguardo al derby, sì. Ecco, le scene che abbiamo visto nell'ultimo derby Roma-Lazio. Io credo che il minimo sia fare giocare a porte chiuse, e quello giusto sia squalificarli. Aspetti, quale derby? Quale a porte chiuse? Quello che deve venire adesso, la finale. La finale di Coppa Italia? Coppa Italia. Non parliamo di qualche scaramuccia, una città bloccata. Noi viviamo, se facesse cose in una manifestazione politica erano ancora qui adesso a gridare sindaci, amministratori, compagnia. Beh, ma lei sa perfettamente come siano state scene terrificanti che abbiamo tristemente visto per un sacco di volte, soprattutto intorno al derby di Roma, no? Quindi che facciamo? Li giochiamo tutti a porte chiuse? A Roma non si può più giocare il derby di calcio, che viene sentito in maniera eccessiva, e su questo sono d'accordo, dai tifosi, dall'ambiente. Giocarla a porte chiuse secondo me sarebbe una sconfitta terrificante per il movimento intero, ma lei se l'immagina, già abbiamo un campionato e un paese in cui c'è il Cagliari che non si sa bene dove gioca, che ha uno stadio chiuso, che ogni domenica deve dire all'avversario, cioè ogni domenica, ogni giovedì dice all'avversario ci troviamo là a giocare perché qui non si può. Adesso abbiamo un miliardo di altri problemi, non solo calcistici, e sapete benissimo, e non ho voglia di uscire dal seminato. Giocare una finale di Coppa Italia, un derby di finale di Coppa Italia, che comunque è un evento senza pubblico e a porte chiuse, sarebbe qualcosa di così, non solo di triste, sarebbe una sconfitta in piena regola, secondo me. Vorrebbe dire, allora, ci sono certe situazioni, ci sono certi eventi agonistici che non siamo in grado di gestire, di organizzare e quindi di vedere dallo stadio. Spero che una soluzione si trovi. Non ho molta fiducia nelle teste di, in questo caso non mi viene la parola, che si sono menati l'altra volta. Io suppongo che ci sarà un grande lavoro per l'ordine pubblico. Mi auguro che la demagogia faccia il suo corso, giocare alle 15 piuttosto che alle 19, piuttosto che alle 17. Sarà comunque una partita, un evento molto difficile da organizzare. Vediamo se riusciamo a dare, se riuscirà ad uscire da qualche parte una prova di maturità. Semplicemente questo, ma porte chiuse no, mi rifiuto di pensarlo. Raffaele, provincia di Lecco. Buongiorno, dica. Grazie per avermi convocato. Volevo soltanto lanciare una provocazione, diciamo così. Per Valentino Rossi, che io l'altra sera ho visto un programma Febbre Gialla, volevo dire ai non tifosi che secondo me potranno parlare dopo, o qualcuno, chiunque esso sia, dopo che hanno vinto 9 mondiali, 105 gran premi e tutto quello che ci va dietro. Poi aspettiamolo quest'anno, che per secondo me è la resa dei conti. Sì, tutto qua. Sono d'accordo. E sulla questione dell'evasione fiscale, lei come la vede? C'è Luca che mi risponde: le tasse le ho sempre pagate, anche le multe. Beh, Luca non ha fatto altro che il suo dovere, l'ho sempre fatto anch'io, quindi sono d'accordissimo con te. Anche e con questo non riesco a non fare il tifo sulla pista per Valentino Rossi, così come ci sono stati molti altri evasori fiscali per i quali magari Luca fa il tifo facendo finta di niente. Ma Luca, no? Lo rispetto. corretto perché non c'è nessun tipo di problema. Io lavoro dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica mi metto a guardare lo sport, d'accordo, guardiamo lo sport. Dopodiché si parla della persona dal lato fiscale o tutto quello che è, quello sono altri io la penso esattamente come lei. Se poi Valentino Rossi evade il fisco e lo beccano, lo rimultino, lo vessino, gli portino via tutto il patrimonio, lo mettano in prigione, eccetera, eccetera. Lo valuteremo da un altro aspetto. Io guardo il campo e la pista. Il resto, ripeto, mi interessa in un secondo tempo. Angelo, provincia di Bari, poi ci fermiamo per il traffico. E poi, visto che ne avete voglia, ne voglio anch'io, parliamo un po' di motori. Angelo, dica. Senti, il mio sarà forse un intervento che lei potrà considerare un po' snob, però le chiedo, si stupisce ancora per il fatto che questo mondo vada in questa maniera? Se Balotelli risulta una tra le 100 persone più influenti del pianeta, mi faccia capire chi e in che modo sono influenzati da Balotelli su questa terra, perché in base alla risposta che mi darà probabilmente io capirò perché voglio no sapere. Angelo, io che risposta vuole che le dia? Non lavoro al Time, non lavoro al Time. Secondo me è una fesseria, una butade, non credo neanche provocazione, è forse una scelta di chi non conosce bene la nostra realtà. A me sinceramente di questa nomination di Balotelli tra le persone, tra le 100 persone più influenti del mondo, primo, non frega niente, secondo, come lei, non sono d'accordo, non si tratta di essere snob, mi domando come possa influenzare qualcuno. Io anche lì guarda Balotelli sul campo, dice delle cose interessanti quando ha voglia di parlare, su altre è meglio glissare. Su questa elezione, su questa nomination, su questa anche mini guerra giornalistica tra varie testate, io non mi soffermo perché non me ne importa nulla. Quindi se il suo è un intervento snob, per una volta mi unisco allo snobismo, anche se non è mia abitudine. Grazie, ci fermiamo per il traffico e poi sentiamo, parliamo un po' di motori con voi, 800 24 00 24. Ah, grazie Carlo. Tutti convocati. Chi ha perso e chi ha vinto ieri? Chi ha perso? La Ferrari e Alonso, il pilota spagnolo. Solo sfortuna, è la prima volta che succede in 3 anni di DRS, è successo la domenica della gara. Non ho visto la Red Bull, solo ho trovato Weber adesso alla fine gara, quindi non so esattamente Vettel cosa ha fatto, però quando hai pista libera non c'è nessun attacco, non c'è nessuna pressione, è molto facile tenere le gomme, ci è successo a noi in Cina, eccetera, quindi sicuramente con noi lì davanti la gara forse era più difficile. Uomini di poca fede, magari non mi credevate quando dicevo che Marquez è la prossima grande cosa, the next big thing, come dicono gli americani, nel mondo del motomondiale. Ieri, prima vittoria. La verità è che sono molto contento, la gara è stata difficile, è stata molto dura, spero che abbiamo fatto un bel lavoro, voglio ringraziare tutto il team, no? Che senza loro non è possibile questo. Dai, è bellissimo, ma quanto non ci sa. Vale dice, fenomeno, e c'è, se non credete a me, credete, se volete, a lui. Io saluto e ringrazio un altro fenomeno, Leo Turrini, nostro amico. Ciao, anche se il paragone che hai fatto è un po' eccessivo, io non sono ai livelli né di Marquez né di Alonso. No, però questi mondi bislacchi li conosce, li racconti come pochi altri, e allora dimmi se vale la sfortuna nera di Alonso o valgono altre cose per la Ferrari in Bahrain? No, guarda, Enzo Ferrari era solito dire che nell'automobilismo la sfortuna non esiste. Allora, se ti si rompe l'ala posteriore, perché arriva, voglio dire, una saetta dai cieli, vuol dire che non era stata preparata bene. Purtroppo è stato un limite di affidabilità della macchina. Sai, il grande dispiacere è questo, che nell'immediato la Ferrari di Alonso rischia di somigliare al PD di Bersani. Se vuoi te la spiego. sì, che me la, per forza. No, nel senso che come il PD per l'elezione del Presidente della Repubblica disponeva, diciamo, del quasi 50% dei delegati in Parlamento, e poi alla fine sappiamo com'è andata. La Ferrari in questi primi 4 Gran Premi aveva una macchina superiore alla Red Bull, perché questo è fuori discussione, dico la Ferrari guidata da Fernando, Sì, certo. Dopodiché tu vai a guardare la classifica e c'è la rielezione di Napolitano, Vettel alle viste, perché dopo queste 4 corse con una Red Bull che andava più piano, Vettel è l'unico che ha vinto 2 volte, a 30 punti di vantaggio ora che si torna in Europa, cioè più di un Gran Premio di vantaggio. E insomma, la Ferrari ha sprecato una bella opportunità ed è appunto un dispiacere, perché la macchina va molto bene. Allora cosa facciamo? Una verifica di governo al muretto? No, allora guarda, bisogna distinguere, nel senso che l'episodio della Malesia è un conto, certo, una responsabilità del pilota che andò addosso a Vettel dopo poche curve, no? Ieri io parlo sempre del problema dell'ala posteriore. Si è trattato, come dicevamo prima, di un guasto, quindi di un particolare che evidentemente non era stato sufficientemente tenuto sotto controllo, va, che questa è la formula più elegante. Però insisto, si può provare lo stesso, perché almeno per quanto abbiamo visto finora la F138 è una macchina andata molto bene, che riesce a essere competitiva e veloce con qualunque tipo di gomma. Indubbiamente a uno come Vettel, che sbaglia pochissimo, non bisogna dare dei vantaggi, ecco. No, bisogna cominciare a vincere. Tutto va bene, tutto è a posto, la macchina è competitiva, Alonso è il più forte pilota del mondo, però io vedo la foto del Kaiser che alza la coppa. In questi giorni si è parlato molto di colpo di Stato, in maniera anche impropria. Qui abbiamo il Kaiser, è una tirannide. Tu devi guardare i numeri, la cosa preoccupante è quel meno 30, anche perché questo significa che sin dalla prossima tappa a Barcellona, tra 3 settimane, Fernando sarà costretto ad attaccare e Vettel potrà gestire un po' la situazione. Poi per carità, ci sono ancora 15 Gran Premi, che significa quasi 400 punti in palio, per cui il discorso in sé è apertissimo, però insomma... Non sono state valorizzate le opportunità che la superiorità della monoposto offriva. Poi su Massa invece cosa vuoi che ti dica? Massa è come Paperino, hai presente Paperino con la 313? Ma come no, come no? Io sono andato un sacco di volte nel Bahrain, il circuito sorge in mezzo al deserto, non si trova un chiodo, una puntina da disegno, niente, ci sono solo beduini, dromedari e dune, e questo brasiliano riesce a forare 2 volte, non una, 2 volte. Io ti giuro, visto che tu sei bravissimo e questo è un programma strepitoso, che dovresti fare veramente una puntata, dire: ma per quale ragione Felipe Massa, se mi passi il termine, è così sfigato? È così perché sfigato. Io ti assicuro che dal 2004 al 2013 in Bahrain credo non abbia forato mai nessuno. Questo fora 2 volte. Gli buttavano i chiodi dalle macchine che lo precedevano. Ti ho detto Paperino, una cosa, infatti vedi, è ingiusto, è ingeneroso, però Napoleone Bonaparte era solito dire: tra un generale bravo e un generale fortunato scelgo quello fortunato. Ma certo. E questo è il motivo per cui la Ferrari deve prendere pole di resta per l'anno prossimo, che con la Force India sta facendo delle cose bellissime, perché probabilmente è meno iellato di Paolino, Paperino, Felipe Massa. Anche a Berlusconi piacciono gli allenatori fortunati. Ma non ti voglio ritrascinare in politica. Adesso sai, io politica io non ne parlo volentieri, però Ma io neanche. No, ma siccome ho sentito, ho letto, abbiamo visto tutti che Berlusconi ha contribuito a confermare Napolitano, non capisco perché non voglio confermare Allegri. sono i misteri della vita. Non ci pensi, perché Napolitano Allegri sì, Allegri no. Ma si vede che Napolitano gli dà più retta di Allegri, questo non lo so, No, non lo so nemmeno io, però ascolta Leo, io vorrei farti parlare con un ascoltatore al volo, perché poi dobbiamo chiudere. Francesco da Cuneo. Sì, ciao. Ciao, dimmi. Ciao a tutti. No, volevo, ho visto il Gran Premio, il MotoGP, e a parte la prestazione di Valentino, che comunque rimane sempre un grande, ma Marquez è il nuovo fenomeno, cioè ha tutto per piacere. Francesco, sono mesi che lo diciamo, adesso, insomma, visto che non lo conoscevamo, stiamo imparando a conoscerlo, ma d'altra parte lo stesso Valentino Rossi ha detto è un fenomeno, e abbiamo parlato in diretta con Lorenzo da questi microfoni, gli ho chiesto, ma temi di più, dimmi la verità, Pedroso Marquez, lui ha glissato un po', dipende dal circuito, e dipende dal circuito, neanche tanto, se rispondi così vuol dire che non ti vuoi sbilanciare su chi temi di più e non è il vecchio camomillo Pedrosa, è questo ragazzino tremendo. Michele Bolzano. Sì, buongiorno Genta, volevo fare due parole su Dovizioso. Sì, perché secondo me ha fatto una gran gara ieri, un po' ce lo siamo persi, tanto di cappello Valentino, un fantastico Marquez, ho visto delle pieghe con lo slow motion che erano impressionanti, ha bisogno della saponetta veramente anche sulle orecchie, no? Però bravo Dovizioso, dice lei, e meno male. Michele, devo lasciare un minuto di risposta alle autorine e lo faccio volentieri. Ma guarda, io ho una certa età, contrariamente a te, quando vedo le gare di questo Marquez mi torna in mente Jarno Saarinen, che forse è stato il primo grande rivoluzionario del moto mondiale oltre 40 anni fa, fino al tragico epilogo di Monza e vicino alla ricorrenza, purtroppo, quando persero la vita lui e Pasolini. Su Dovizioso, a me fa piacere che riesca a tenere la Ducati in linea di galleggiamento, perché anche se l'hanno comprata i tedeschi dell'Audi, è pur sempre una delle non numerose eccellenze italiane. Valentino non so, credo che si sia preso una bella gatta da pelare scegliendo di tornare a Yamaha, dove c'è appunto Lorenzo, però noi abbiamo appena rieletto Napolitano, quindi a maggior ragione dobbiamo stare per i Matusa, per cui io sto con Valentino Rossi e mi auguro altri 7 anni di gloria. Allora fai, apposta Leo, allora io provo a glissare e tu mi riporti sempre lì, ti voglio molto bene, ci sentiamo alla prossima. Più bravo di tutti, saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Leo Turrini, grazie sempre, ci fermiamo qui, grazie anche a Laura Faggin per il lavoro in redazione, a Capitano Fabio Cantadore in regia, ci troviamo con tutti i convocati domani pomeriggio alle 2. Io ti giuro, visto che tu sei bravissimo e questo è un programma strepitoso, che dovresti fare veramente una puntata, dire ma per quale ragione Felipe Massa, se mi passi il termine, è così sfigato.